A questo punto, ma appena in tempo per salvare il libro dall'estinzione, Orlando spinse indietro la poltrona, stirò le braccia, lasciò cadere la penna, andò alla finestra ed esclamò: «Finito!». Lo spettacolo straordinario che si offrì ai suoi occhi per poco non la fece cadere a terra. C'era il giardino e qualche uccello. Il mondo andava avanti come al solito. Il mondo era continuato per tutto il tempo che lei aveva passato a scrivere. E se fossi morta sarebbe lo stesso, esclamò. Tanta era l'intensità delle sue emozioni che sarebbe riuscita perfino a immaginare di essersi dissolta. Forse aveva avuto davvero qualche mancamento. Per un momento rimase fissa a guardare quello spettacolo bello e indifferente. Infine si rianimò, e in un modo particolare. Il manoscritto che le riposava sul cuore si mise a fremere, a palpitare come una cosa viva, e fatto ancora più singolare che dimostrava quale grande intesa li unisse. Chinando la testa, Orlando poté sentire quel che le diceva. Voleva essere letto, doveva essere letto. Sarebbe morto sul suo seno se non veniva letto. Per la prima volta in vita sua, Orlando si rivoltò violentemente contro la natura. Levrieri e rosai la attorniavano a profusione, ma né levrieri né rosai sanno leggere. Da parte della provvidenza è una deplorevole dimenticanza, della quale prima non si era mai accorta. Solo gli esseri umani hanno questo dono. Gli esseri umani erano diventati una necessità. Suonò il campanello, ordinò la carrozza per andare subito a Londra. «C'è giusto il tempo di prendere quella delle 11:45, Milady», disse Basket. Orlando non si era ancora accorta dell'invenzione della locomotiva, ma era così partecipe delle sofferenze di un essere che, pur non essendo lei, dipendeva interamente da lei, che vide per la prima volta un treno. Si sedette in uno scompartimento e si aggiustò la coperta sulle ginocchia senza pensare un momento a quella meravigliosa invenzione che, così dicono gli storici, aveva completamente cambiato il volto dell'Europa negli ultimi 20 anni, il che in verità accade molto più spesso di quanto suppongano gli storici. Notò solo che era estremamente affumicato, orrendamente sferragliante e coi finestrini bloccati. Immersa nei suoi pensieri, fu catapultata in meno di un'ora a Londra, dove si trovò sul marciapiede di Charing Cross senza sapere dove andare. La vecchia casa di Blackfriars, dove aveva trascorso tanti bei giorni nel XVIII secolo, ora era venduta. Parte all'esercito della salvezza, parte a una fabbrica di ombrelli. Orlando ne aveva comprata un'altra a Mayfair, igienica, comoda e nel cuore del bel mondo. Ma era a Mayfair che il desiderio del poema sarebbe stato appagato? Volesse il cielo, pensava, ricordando lo sguardo splendente delle dame e la simmetria delle gambe dei gentiluomini che non si fossero messi a leggere. Sarebbe stato davvero un gran peccato. C'era poi la casa di Lady Eyre, certo, i discorsi che vi si facevano erano gli stessi, non ne dubitava. Forse la gotta del generale era passata dalla gamba sinistra alla destra. Forse Mr. L. aveva passato 10 giorni con R invece che con T. Poi sarebbe arrivato Pope. Oh, ma Pope era morto. Chi erano ora i begli spiriti? Si chiese. Ma non era domanda da fare a un facchino, e così proseguì. Ora il tintinnio di innumerevoli sonagli sulla testa di innumerevoli cavalli le ferì le orecchie. Flottiglie di stranissime scatolette a ruote erano schierate lungo il marciapiede. Si avviò verso lo Strand. Là il frastuono era ancora peggiore. Veicoli di ogni dimensione, tirati da cavalli di razza e da tiro, occupati da una matrona solitaria o stipati di signori in tuba e favoriti, si mescolavano inestricabilmente. Ai suoi occhi, abituati da tanto tempo alla vista di un gran foglio liscio di carta, vetture, carri e omnibus sembravano scontrarsi pericolosamente, e alle sue orecchie, abituate allo stridere della penna, il frastuono della strada suonava violentemente e obbrobriosamente cacofonico. Ogni spanna di marciapiede era affollata. Una corrente umana si riversava incessante da est a ovest, sgusciando con incredibile agilità tra i corpi e il traffico greve e traballante. Sul bordo del marciapiede c'erano uomini che offrivano cassette di giocattoli e urlavano. Sulle cantonate delle donne sedevano dietro a grandi ceste di fiori primaverili e urlavano. Dei ragazzi che scorrazzavano sotto il naso dei cavalli, stringendo al petto fogli di carta stampata, urlavano anch'essi: «Disastro, disastro!». Dapprima Orlando credette di essere arrivata in un momento di crisi nazionale. ma non avrebbe saputo dire se fosse di natura lieta o tragica. Guardò ansiosa le facce della gente, ma ne rimase ancora più confusa. Qui le veniva incontro un uomo sprofondato nella disperazione, che mormorava tra sé come colto da una tremenda sventura. Dietro di lui un grassone dal viso giocondo si faceva strada a spallate, come se tutto il mondo fosse in festa. Insomma, finì per concludere che tutto questo non aveva né capo né coda. Ogni uomo e ogni donna andava per gli affari suoi e lei dove doveva andare? Senza pensare, si diresse su per una strada, giù per un'altra, davanti a grandi vetrine zeppe di borsette, specchi, vestaglie, fiori, canne da pesca, cestini per la colazione e stoffe di ogni colore e disegno che si intrecciavano in archi, festoni e drappeggi. A volte percorreva viali con austere dimore sobriamente numerate, 1, 2, 3, e così via, fino al 200 e al 300. L'una identica all'altra, con due pilastri, 6 gradini, un paio di tende ben tirate e la tavola apparecchiata per il pranzo di famiglia, e un pappagallo che guardava da una finestra e un cameriere da un'altra, finché quella monotonia le faceva girare la testa. Poi arrivava a grandi piazze ariose che avevano al centro statue nere e lucide di uomini rigidamente abbottonati fino al collo. Cavalli da guerra che si impennavano e colonne che si innalzavano e fontane che zampillavano e piccioni che svolazzavano. Camminò e camminò sui marciapiedi tra le case finché sentì una gran fame e qualcosa che le si agitava sul cuore la rimproverò di averlo totalmente dimenticato. Era il suo manoscritto, la quercia. Si vergognò della sua negligenza, si fermò di colpo dove si trovava. Nessuna carrozza in vista. La strada, spaziosa e bella, era singolarmente deserta. C'era solo un signore attempato che si avvicinava. Nella sua andatura c'era qualcosa che le era vagamente familiare. Mentre si avvicinava, sentì con certezza di averlo già incontrato in tempi vicini o lontani, ma dove? Era possibile che quel signore così lindo, distinto e prosperoso, col bastone in mano e il fiore all'occhiello, con quella faccia rosea e paffuta e i baffi bianchi lisciati, possibile che fosse, sì, per Giove, era lui, il suo vecchissimo amico Nick Green. Nello stesso momento lui la guardò, si ricordò di lei, la riconobbe. Lady Orlando! Esclamò, spazzando quasi la strada col cilindro. Sir Nicholas! Esclamò lei, perché istintivamente aveva intuito da qualcosa nel portamento di lui che lo scurrile scribacchino che al tempo della regina Elisabetta aveva satireggiato coi suoi libelli lei e molti altri era cresciuto di rango ed era sicuramente diventato cavaliere e un mucchio di altre belle cose in aggiunta. Con un altro inchino egli le confermò che la sua deduzione era esatta. Era cavaliere, era dottore in lettere, era professore. Era autore di una ventina di volumi, in breve era il critico più influente dell'epoca vittoriana. L'assalì un violento tumulto di emozioni, incontrando l'uomo che le aveva sbruciacchiato i tappeti, arrostito il formaggio nel camino all'italiana, raccontato tante storielle su Marlowe e gli altri che 9 notti su 10 avevano fatto l'alba. Ora era vestito di un elegante abito grigio da mattina, con un fiore all'occhiello e guanti scamosciati in tinta. Ma mentre lei lo guardava meravigliata, lui tornò a inchinarsi e le chiese l'onore di invitarla a colazione. Forse l'inchino era esagerato, ma l'imitazione delle belle maniere era credibile. Lo seguì, stupita, in un sontuoso ristorante tutto velluto rosso, tovaglie bianche, ampolline d'argento, tutt'altra cosa dalla vecchia taverna o dal caffè, con la segatura sul pavimento, le panche di legno e le scodelle di pance e cioccolato, le gazzette e le sputacchiere. Posò i guanti in bell'ordine accanto a sé sul tavolo. Lei stentava ancora a credere che fosse lo stesso uomo. Le unghie, una volta lunghe un pollice, erano pulite, il mento, dove un tempo spuntava una barba nera, era rasato, portava gemelli d'oro, mentre un tempo la biancheria sfilacciata gli si intingeva nella minestra. Solo allorché ordinò il vino con una sollecitudine che le ricordò il suo antico gusto per la malvasia, Orlando si convinse che era lo stesso uomo. Ah, disse lui, dando un lieve sospiro piuttosto soddisfatto. Ah, mia cara signora, i grandi giorni della letteratura sono finiti. Marlowe, Shakespeare, Ben Jonson, quelli erano i giganti. Dryden, Pope, Edison, quelli erano gli eroi. Tutti, tutti sono morti ora. E chi ci hanno lasciato? Tennyson, Browning, Carlyle. C'era un immenso disprezzo nella sua voce. La verità è, disse versandosi un bicchiere di vino, che tutti i nostri giovani scrittori sono al soldo degli editori. Sfornano qualsiasi robaccia purché serva loro a pagare i conti del sarto. È un'epoca, disse servendosi gli antipasti, che si distingue per le preziose affettazioni e gli sperimentalismi azzardati, cose che gli elisabettiani non avrebbero tollerato neanche un momento. No, mia cara signora, proseguì passando con approvazione al turbo gratin che il cameriere gli sottoponeva a giudizio. I grandi giorni sono finiti. Viviamo in un'epoca degenerata. Dobbiamo aver caro il passato e onorare quegli scrittori. Ce n'è rimasto ancora qualcuno? Che prendono a modello l'antichità e scrivono non per denaro, ma per la gloria, fu sul punto di esclamare Orlando. Avrebbe davvero giurato di avergli sentito dire le stesse cose 300 anni prima. Naturalmente i nomi erano diversi, ma lo spirito era lo stesso. Nick Green non era cambiato, malgrado tutto il suo cavalierato. Eppure, qualche cambiamento c'era, perché mentre continuava a dire che bisognava prendere a modello Edison, una volta era cicerone, pensò lei, e stare a letto la mattina, si sentì fiera al pensiero che la sua pensione pagata trimestralmente glielo permettesse, farsi la bocca declamando le opere migliori dei migliori autori almeno per un'ora prima di mettere nero su bianco, in modo da purificare la volgarità contemporanea e la deplorevole condizione della nostra lingua natia. Doveva aver vissuto molto in America, pensò lei, mentre continuava a parlare senza sosta, più o meno come il Nick Green di 300 anni prima. Lei ebbe agio di chiedersi in che cosa mai fosse cambiato. Era diventato grassoccio, ma era vicino alla settantina. Era diventato florido. Evidentemente la letteratura era stata un'occupazione proficua, ma l'antica irrequietezza, la briosa vivacità di un tempo erano scomparse. Le sue storielle, sempre brillanti, non erano più così libere e franche. Citava, è vero, il mio buon amico Pope e il mio grande amico Edison a ogni piè sospinto, ma aveva intorno a sé un'aura di irrispettabilità che era deprimente e preferiva, a quanto pareva, istruirla sui detti e i fatti della sua stessa famiglia piuttosto che raccontarle, come un tempo, maldicenze sui poeti. Orlando era indicibilmente delusa. Durante tutti quegli anni si era fatta della letteratura, la scusa, no, l'isolamento, il rango, il sesso, l'idea di qualcosa di selvaggio, come il vento ardente, come la fiamma, rapido come la folgore, qualcosa di erratico, incalcolabile, improvviso. Ed ecco che la letteratura era un anziano signore vestito di grigio che cianciava di duchesse. La violenza della disillusione fu tale che un gancio o un bottone che le chiudeva la parte alta dell'abito si staccò di colpo e ne fuoriuscì cadendo sul tavolo un poema, La Quercia. «Un manoscritto!» disse Sir Nicholas inforcando il pensene d'oro. «Interessante, molto interessante. Permettete che dia uno sguardo?» E ancora una volta, a circa 300 anni di distanza, Nicholas Green prese in mano il poema di Orlando e, posandolo tra le tazze da caffè e i bicchierini da liquore, cominciò a leggerlo. Ma ora il suo verdetto fu molto diverso da quello di un tempo. Gli ricordava, disse sfogliandolo, il Catone di Edison. Sosteneva felicemente il confronto con le stagioni di Thompson. Non conteneva traccia, era lieto di poterlo dire, dello spirito moderno. Era scritto con un rispetto della verità, della natura, delle esigenze, dell'animo umano, davvero raro in quei tempi di eccentricità senza scrupoli. Naturalmente bisognava pubblicarlo subito. Orlando davvero non capì cosa volesse dire. L'aveva sempre portato con sé sotto i vestiti sul seno. L'idea solleticò notevolmente Sir Nicholas. «E per i diritti d'autore?» chiese. Il pensiero di Orlando volò a Buckingham Palace e a qualche oscuro potentato che vi abitava. Sir Nicholas si divertiva molto. Spiegò che aveva alluso al fatto che l'editore, e qui nominò una famosa casa editrice, sarebbe stato ben lieto, se lui gli avesse scritto due righe, di inserire il libro in catalogo. Probabilmente sarebbe riuscito a concordare il 10% sulle prime 2000 copie e il 15% sulle successive. Quanto ai critici, avrebbe scritto lui due righe a che era il più influente, e un complimento, diciamo una citazioncella delle sue poesie, alla moglie del redattore della non avrebbe guastato. Poi avrebbe fatto una visitina a e così via. Orlando non ci capiva nulla e per antica esperienza non si fidava troppo di quella bonarietà. ma non restava che sottomettersi a ciò che era evidentemente il desiderio di lui e la brama del poema stesso. Così Sir Nicholas fece un bel pacchetto dello scartafaccio macchiato di sangue, se lo mise nella tasca interna della giacca, ben schiacciato per non sciupare la linea dell'abito, e con molti ossequi reciproci si separarono. Orlando risalì la strada. Ora che il poema se n'era andato e sentiva un vuoto sul seno là dove era solita portarlo, non le restava altro da fare che riflettere su quel che più le piaceva, per esempio sui casi straordinari del genere umano. Lei era lì, in St. James Street, donna sposata con anello al dito, dove una volta c'era un caffè, ora c'era un ristorante. Erano circa le 3:30 del pomeriggio, splendeva il sole, c'erano 3 piccioni, un terrier un po' bastardo, 2 carrozze e un landò. Che cos'era dunque la vita? Quel pensiero le balzò in mente in modo violento e assurdo, a meno che il vecchio Green non ne fosse un po' la causa. E può essere preso a commento, sfavorevole o favorevole, a scelta del lettore, sui suoi rapporti col marito, che era capo Horn, il fatto che ogni volta che qualcosa le saltava in mente con violenza, si precipitava al più vicino ufficio telegrafico e gli telegrafava: «Per fortuna, eccone uno proprio a 2 passi. Mio Dio, Shell!» telegrafò. «Vita, letteratura, Green, leccapiedi!» Qui passò a un linguaggio cifrato di loro invenzione che permetteva loro di esprimere i più complessi stati d'animo in una parola o due, senza che l'impiegato del telegrafo ci capisse nulla. E aggiunse le parole «Ratigan glamfobu», che lo riassumevano alla perfezione. Perché non solo gli avvenimenti della mattinata avevano prodotto su di lei un'impressione profonda, ma al lettore non sarà certamente sfuggito che stava crescendo, il che non significa necessariamente che stava maturando. E Ratigan Glamfobu descriveva uno stato spirituale molto complesso che il lettore, mettendo al nostro servizio tutta la sua intelligenza, potrà scoprire da sé. La risposta al suo telegramma non poteva arrivare che dopo qualche ora, ma era anche probabile, pensò gettando un'occhiata al cielo dove le nubi più alte si inseguivano rapide, che a Capo Horn ci fosse una tempesta e che quindi suo marito fosse sull'albero maestro o intento a tagliar via qualche pezzo di alberatura sbrindellata o perfino solo su una scialuppa con una galletta. Così, uscita dall'ufficio postale, entrò, per ingannare il tempo, nel negozio più vicino, un negozio così comune ai nostri giorni che non c'è bisogno di descriverlo, ma ai suoi occhi oltremodo strano, un negozio dove si vendevano libri. Per tutta la sua vita Orlando aveva avuto dimestichezza coi manoscritti. Aveva tenuto fra le mani i ruvidi fogli bruni su cui Spencer aveva scritto con la sua minuscola calligrafia contorta. Aveva visto la scrittura di Shakespeare e di Milton. Per la verità possedeva anche un discreto numero di in quarto e in folio, spesso con un sonetto in sua lode, a volte con una ciocca di capelli. Ma quei volumetti innumerevoli, vivaci, identici, effimeri, perché sembravano rilegati in cartone e stampati su carta velina, la stupirono infinitamente. Le opere complete di Shakespeare costavano 1/2 corona e si potevano mettere in tasca. È vero che erano quasi illeggibili, tanto i caratteri erano piccoli, ma non di meno erano una meraviglia. Opere! Le opere di tutti gli scrittori che aveva conosciuto o di cui aveva sentito parlare e di molti altri ancora si stendevano da un capo all'altro dei lunghi scaffali. Sui tavoli e sulle sedie altre opere si ammucchiavano alla rinfusa e vide, sfogliandone qualche pagina, che spesso erano opere su opere altrui scritte da Sir Nicholas e da 12 d'altri che nella sua ignoranza immaginò fossero anch'essi dei grandi scrittori visto che erano stampati e rilegati. Dette quindi al libraio esterrefatto l'ordine di mandarle a casa tutto quello che aveva di una certa importanza in negozio e se ne andò. Entrò in Hyde Park, che conosceva da tempi antichi. Là, sotto quell'albero spaccato, Lord Mohan aveva infilzato da parte a parte il duca di Hamilton. E le sue labbra, spesso biasimevoli, cominciarono a formare le parole del telegramma in una cantilena insensata. «Vita! Letteratura! Green, leccapiedi, Ratigan Glamfobu». Tanto che parecchi guardiani del parco la guardarono con sospetto e solo la vista della collana di perle che portava li indusse a una migliore opinione sulla sua salute mentale. Dalla libreria aveva portato con sé un pacco di giornali e riviste di critica e finalmente, stesasi sotto un albero con la testa appoggiata al gomito, sparpagliò quei fogli intorno a sé e fece del suo meglio per sondare la nobile arte della prosa, così come la praticavano quei maestri, perché in lei l'antica credulità era ancora viva. Perfino i caratteri sbavati di un settimanale avevano ai suoi occhi una certa sacralità. Così, poggiata sul gomito, lesse un articolo di Sir Nicholas sulle opere complete di un uomo che un tempo aveva conosciuto, John Donne. Ma senza saperlo si era sdraiata non lontano dal Serpentine. L'abbaiare di 1.000 cani le rintronava nelle orecchie, le ruote dei veicoli correvano in un cerchio incessante. Le foglie le sospiravano sopra la testa. Di tanto in tanto, a pochi passi da lei, una gonna orlata di passamaneria e un paio di pantaloni scarlatti attillati attraversavano il prato. Una volta rimbalzò sul giornale un'enorme palla di gomma. Violetti, arancioni, rossi e azzurri si aprivano un varco tra foglia e foglia, scintillando sullo smeraldo al suo dito. Leggeva una frase e alzava lo sguardo al cielo. Alzava lo sguardo al cielo e tornava a guardare il giornale. Vita, letteratura, trasformare l'una nell'altra, che mostruosa difficoltà. Ad esempio, passava un paio di pantaloni scarlatti attillati, come li avrebbe resi Edison? Ed ecco due cani che ballavano sulle zampe posteriori, come li avrebbe descritti Lamb. Perché, leggendo Sir Nicholas e i suoi amici, come faceva quando non si guardava intorno, aveva come l'impressione, qui si alzò e mosse qualche passo, ti davano la sensazione, una sensazione veramente sgradevole, che non si dovesse mai, mai dire quel che si pensava. Era sulle rive della Serpentine color bronzo. Barchette sottili come raggi la solcavano da una sponda all'altra. Ti davano la sensazione, continuò, di dover sempre, sempre scrivere come qualcun altro. Negli occhi le spuntarono le lacrime. Davvero, pensava, spingendo una barchetta con la punta del piede, non credo che sarei capace. Qui l'articolo di Sir Nicholas le venne alla mente nell'insieme. Come succede con gli articoli 10 minuti dopo averli letti, unitamente alla stanza dell'autore, alla sua testa, al suo gatto, alla scrivania e all'ora della giornata. No, non credo che sarei capace, proseguì considerando l'articolo da questo punto di vista, di star seduta in uno studio. Ma no, non è uno studio, è una specie di salotto ammuffito dal mattino alla sera, a chiacchierare con dei bei giovanotti e a raccontare loro degli aneddoti. Da non riferire ad altri, su quello che Tupper ha detto di Smiles. E poi, continuò piangendo amaramente, sono tutti così virili. E poi io detesto le duchesse e non mi piacciono i dolci, e benché sia abbastanza sdegnosa, non potrei mai imparare a essere sdegnosa fino a quel punto. Allora, come posso fare il critico e scrivere la miglior prosa inglese del mio tempo? Al diavolo! Esclamò spingendo una minuscola imbarcazione con tanta energia che la povera barchetta per poco non affondò tra le onde color bronzo. Ora, la verità è che quando si è passati da un certo stato d'animo, come dicono le governanti, e Orlando aveva ancora le lacrime agli occhi, la cosa che si guarda non è quella, ma un'altra cosa, che è tanto più grande e più importante pur restando la stessa. Se si guarda il serpentino in questo stato d'animo, le onde diventano subito grandi come quelle dell'Atlantico. Una barchetta a giocattolo non si distingue più da un transatlantico. Perciò Orlando scambiò la barchetta per il brigantino di suo marito e l'onda che aveva mosso con la punta del piede per una montagna d'acqua al largo di Capo Horn. E osservando la barchetta scalare la cresta, le parve di vedere la nave di Bonthrop salire e scalare una muraglia di vetro. Saliva sempre più su, e una cresta bianca che racchiudeva 1.000 morti le si inarcava sopra. E ingoiata dalle 1.000 morti spariva. «È affondata!» gridò con angoscia. E poi riecco la nave, leggiare sana e salva tra le anitre, dall'altra parte dell'Atlantico. «Estasi!» esclamò Orlando. «Estasi! Dov'è un ufficio postale?» si chiese. «Devo telegrafare subito a Shell e dirgli...» E ripetendo alternativamente, «Una barchetta sulla Serpentina ed estasi!» Poiché i pensieri erano intercambiabili e significavano esattamente la stessa cosa, si diresse di corsa verso Park Lane. Una barchetta, una barchetta, una barchetta, ripeteva, convincendosi sempre più che non sono gli articoli di Nick Green su John Donne, né la legge sulle 8 ore, né le convenzioni, né i decreti sull'industria che contano. È qualcosa di inutile, improvviso, violento. Qualcosa che vale una vita. Rosso, azzurro, porpora, uno zampillo, un getto. Qualcosa come quei giacinti. Passava accanto a una bella aiola. Libero da ogni macchia, dipendenza, bruttura umana o amor proprio. Qualcosa di sconsiderato, di ridicolo, come il mio giacinto, voglio dire, mio marito, Bonthrop. Ecco cos'è. Una barchetta sul serpentin. Estasi, è l'estasi che conta. Parlava a voce alta, aspettando che le carrozze attraversassero la strada a Stanhope Gate, perché la conseguenza del fatto di non vivere col proprio marito, salvo quando il vento è caduto, è di dire assurdità a voce alta in Park Lane. Senza dubbio sarebbe stato diverso se avesse vissuto con lui per tutto l'anno, come raccomandava la regina Vittoria. Ma così il pensiero di lui la assaliva come un lampo. Sentiva il bisogno di parlargli immediatamente. Non le importava affatto che questo fosse assurdo o che disturbasse il racconto. L'articolo di Nick Green l'aveva gettata in una disperazione profonda. La barchetta l'aveva innalzata al culmine della gioia. Così, mentre aspettava di attraversare la strada, ripeteva estasi, estasi. Ma il traffico era lento in quel pomeriggio di primavera e la fece restare a lungo là a ripetere estasi, estasi o una barchetta sul serpentin, mentre la ricchezza e la potenza dell'Inghilterra sedevano statuarie in cappello e mantello, in tiri a quattro, in vittorie o in landò. Era come se un fiume d'oro si fosse coagulato e ammassato in blocchi d'oro lungo Park Lane. Le dame tenevano dei portabiglietti tra le dita, i signori dondolavano bastoni dal pomodoro tra le ginocchia. Lei stava lì a guardare, ammirata, sgomenta. Un solo pensiero la disturbava, un pensiero naturale a chiunque osservi elefanti enormi o balene di incredibili dimensioni, e cioè, come fanno a riprodursi quei mostri che rifuggono evidentemente da ogni sforzo, da ogni mutamento, da ogni attività? Forse, pensò Orlando guardando quei visi maestosi e immobili, l'epoca della loro propagazione è finita. Questi ne sono i frutti, il prodotto finale. Quello a cui stava assistendo era il trionfo di un'epoca. Là sedevano splendidi e solenni, ma ecco che il vigile abbassò la mano, il fiume si disgelò, il massiccio conglomerato di splendori si mosse, si disperse e scomparve verso Piccadilly. Così lei attraversò Park Lane e giunse alla sua casa di Curzon Street, dove, quando la spirea si piegava al vento, poteva ricordare il fischio del chiurlo e un vecchio con un fucile. Ricordava, pensò varcando la soglia di casa, quel che aveva detto Lord Chesterfield, ma la memoria le mancò. Il sobrio atrio settecentesco, dove ancora vedeva Lord Chesterfield deporre qui il cappello, là il mantello, con un'eleganza di gesti che era una gioia per gli occhi, ora era tutto ingombro di pacchi. Mentre lei se ne stava in Hyde Park, il libraio aveva eseguito il suo ordine e stipato la casa. C'erano pacchi che scivolavano fin dai gradini della scala, di tutta la letteratura vittoriana impacchettata in carta grigia e ben legata con lo spago. Portò quanti più pacchi poté nella sua stanza, ordinò ai domestici di portare gli altri e, tagliati in fretta innumerevoli spaghi, fu presto circondata da innumerevoli volumi. Abituata alla letteratura limitata del XVI, del XVII e del XVIII secolo, Orlando era atterrita dalle conseguenze della sua ordinazione. Naturalmente per i vittoriani la letteratura vittoriana non equivaleva a quattro grandi nomi isolati e distinti, ma a quattro grandi nomi affondati, sepolti fra una massa di Alexander Smith, Dixton, Black, Millman, Buckley, Steyn, Paine, Tupper, Jameson, tutti verbosi, chiassosi, eminenti ed esigenti, ognuno la massima attenzione. Il rispetto di Orlando per la carta stampata era messo a dura prova. Ma accostata alla poltrona alla finestra per godere di quel po' di luce che filtrava tra le alte case di Mayfair, cercò di formulare un giudizio complessivo. Ora è chiaro che ci sono due soli modi di formulare un giudizio complessivo sulla letteratura vittoriana. Uno consiste nell'esprimerlo in 60 volumi in ottavo, l'altro nel condensarlo in sei righe della lunghezza di questa. Dei due sistemi, poiché il tempo scarseggia, l'economia ci consiglia di scegliere il secondo e dunque procediamo. Orlando giunse dunque alla conclusione, dopo aver aperto una mezza dozzina di volumi, che era molto strano non trovare neanche un'opera dedicata a un nobile, poi sfogliato un'altra pila di memorie, che parecchi di quegli scrittori avevano alberi genealogici lunghi almeno la metà del suo. Poi, che sarebbe stato assolutamente antidiplomatico avvolgere la pinza da zucchero in un biglietto da 10 sterline, quando Miss Cristina Rossetti veniva a prendere il tè. Poi, qui c'era una mezza dozzina di inviti a banchetti celebrativi di centenari, che la letteratura, a forza di fare tutte quelle cene, doveva essere diventata ben corpulenta. Poi era invitata a una dozzina di conferenze sull'influenza di questo su quello, sulla rinascita del classicismo, sulla sopravvivenza del romanticismo e altri titoli ugualmente attraenti, che la letteratura, a forza di ascoltare tutte quelle conferenze, doveva essersi molto seccata. Poi, dopo aver partecipato a un ricevimento dato da una nobildonna, che la letteratura, se portava tutte quelle stole di pelliccia, doveva essere diventata molto rispettabile. Poi, qui visitò la stanza insonorizzata di Carlyle a Chelsea, che il genio, visto che aveva bisogno di tanti riguardi, doveva essere diventato molto delicato. E così giunse finalmente alla conclusione, che era della massima importanza, ma che, avendo già superato il limite delle 6 righe, dobbiamo omettere. Orlando, essendo giunta a questa conclusione, rimase per un notevole lasso di tempo a guardare fuori dalla finestra, perché quando si giunge a una conclusione è come se si fosse lanciata la palla al di là della rete e si dovesse aspettare il rilancio dell'avversario invisibile. Che cosa le avrebbero rilanciato dalle nuvole scialbe sopra Chesterfield House? Si chiedeva. E tenendosi le mani, passò un bel po' di tempo a chiederselo. Improvvisamente trasalì, e qui non ci rimarrebbe che desiderare che, come già in precedenza, purità, castità e modestia socchiudessero la porta, dandoci almeno un attimo di respiro, per riflettere come avvolgere nella massima delicatezza ciò che il biografo non può fare a meno di raccontare. Ma no, una volta gettato il loro indumento sulle nudità di Orlando è mancato il segno di diversi pollici. Quelle signore avevano interrotto ogni rapporto con lei per tutti questi anni e ora avevano altro da fare. Non accadrà dunque nulla in questo pallido mattino di marzo per mitigare, velare, coprire, nascondere, avvolgere quell'avvenimento comunque innegabile, perché dopo quell'improvviso e violento sussulto, Orlando, ma Dio sia lodato, proprio in questo momento salì dalla strada, fragile, acuto, flautato, singhiozzante, il suono di quegli antiquati organetti di barberia che qualche italiano strimpella ancora nei vicoli. Accettiamo questo intervento, per quanto umile, come se fosse la musica delle sfere, e coi suoi rantoli e gemiti permettiamogli di riempire di musica questa pagina, finché giungerà il momento che sarà impossibile negare, quello che il domestico e la cameriera hanno visto arrivare e che anche il lettore non potrà fare a meno di vedere, perché la stessa Orlando non potrà più ignorarlo. Lasciamo che l'organetto suoni e ci trasporti col pensiero, il quale non è altro che una barchetta in preda alle onde sonore. Ed eccoci col pensiero, che di tutti i mezzi di trasporto è il più maldestro, il più errabondo, sopra i tetti e i giardini dietro casa dove è steso il bucato. Ma che posto è questo? Non riconoscete il green e il campanile in mezzo e il cancello coi due leoni accovacciati? Ah sì, è Kew. Bene, vada per Kew. Eccoci dunque a Kew. E oggi, 2 marzo, vi mostrerò un giacinto delle vigne sotto il prugno, e un croco e anche una gemma sul mandorlo, e passeggiare qui sarà come pensare a quei bulbi pelosi e rossi che si piantano in ottobre e che ora fioriscono, e sognare di cose inesprimibili, e prendere dall'astuccio una sigaretta o un sigaro e gettare il mantello, come esige pressappoco la rima, sotto una quercia ombrello, e sedersi là ad aspettare il Martin pescatore che, dicono, si è visto una volta guizzare a sera da una sponda all'altra. Aspetta, aspetta, il Martin pescatore viene, il Martin pescatore non viene. Guardiamo intanto le ciminiere delle fabbriche e il loro fumo. Guardiamo i commessi cittadini che sfrecciano in sandolino. Guardiamo la vecchia signora che porta a passeggio il cane e la servetta col cappellino nuovo fiammante messo a sghimbescio. Guardiamoli tutti, benché il cielo abbia misericordiosamente decretato che i segreti dei cuori restino nascosti. Per cui siamo eternamente indotti a sospettare qualcosa che forse non esiste. Tuttavia, attraverso il fumo delle sigarette vediamo fiammeggiare e salutiamo lo splendido appagamento del desiderio naturale per un cappellino, per una barca, per un topo di fogna. Così un giorno abbiamo visto fiammeggiare. Quanti salti e balzi insensati fa la mente quando divaga così al di sopra del piattino al suono dell'organo di Barberia. Un fuoco in un campo sullo sfondo dei minareti presso Costantinopoli. Salve, desiderio naturale. Salve felicità, divina felicità e piaceri d'ogni sorta, fiori e vino, anche se gli uni appassiscono e l'altro ci intossica, i biglietti da mezza corona per la gitta domenicale fuori Londra e inni funebri cantati in una cappella buia. E tutto, tutto ciò che interrompe e confonde il ticchettio delle macchine da scrivere e la schedatura delle lettere e la forgiatura degli anelli, delle catene che tengono insieme l'impero. Salve anche al crudo arco scarlatto delle labbra delle commesse, come se Cupido avesse intinto molto goffamente un dito nell'inchiostro rosso e scarabocchiato un segno del suo passaggio. Salve felicità, Martin pescatore che guizza da una sponda all'altra. E a pagamento del desiderio naturale, qualunque cosa ne dicano i romanzieri maschi. O preghiera, o rinuncia. Salve, sotto qualsiasi forma si presenti e per quanto numerose e strane siano. Perché nera fluisce la corrente, fosse vero quel che suggerisce la rima come un sogno evanescente. Ma ben più dura e tetra è la nostra sorte, senza sogni, ma sveglia, facile, fluida, monotona, sotto alberi la cui ombra olivastra annega l'azzurro dell'ala d'uccello che dilegua quando sfreccia improvviso da sponda a sponda. Salve felicità! E dopo la felicità, lungi da noi quei sogni che appannano l'immagine nitida, come fanno col nostro viso quegli specchi maculati nell'ingresso degli alberghetti di provincia. Sogni che tutto frantumano, che ci dilaniano, che ci squartano nella notte quando vorremmo dormire. Oh sonno, sonno così profondo che tutte le forme non sono più che polvere di infinita dolcezza. Acque di imperscrutabile oscurità. E lì, avvolti, fasciati come mummie, come larve, lasciateci giacere proni sul fondo sabbioso del sonno. Ma un momento, questa volta non scenderemo nel cieco mondo. Azzurro come un fiammifero acceso nel centro della pupilla, vola, arde, infrange il sigillo del sonno. Il Martin pescatore. E così rifluisce come marea rossa e greve la corrente della vita, spumeggiante, gocciante. E ci alziamo. E gli occhi ci cadono. Come comoda una canzone per trasportarci incolumi nel difficile passo dalla morte alla vita. Su. Qui l'organetto smette bruscamente di suonare. È un bel maschietto, milady, disse Mrs. Banting, la levatrice, mettendo tra le braccia di Orlando il suo primo nato. In altre parole, giovedì 20 marzo alle 3 del mattino, Orlando aveva dato felicemente alla luce un figlio. Ancora una volta Orlando se ne stava alla finestra. Ma il lettore si rassicuri, nulla di simile accadrà oggi, che non è affatto lo stesso giorno. No, perché se guardiamo fuori dalla finestra, come faceva lei in quel momento, vedremo che Park Lane era molto cambiata. Si poteva starsene là, come Orlando, per 10 minuti e più, senza veder passare un solo landò. Ma guarda, esclamò qualche giorno dopo, alla vista di un'assurda carrozza senza cavalli che scivolava avanti da sola. Una carrozza senza cavalli. Oh, questa è bella. Proprio nel momento in cui lo diceva, la chiamarono. Ma dopo un po' tornò a guardare fuori. Faceva un tempo strano in quei giorni. Perfino il cielo non poté fare a meno di pensare era cambiato. Non era più così denso, così acquoso, così prismatico, ora che re Edoardo, eccolo là, che scendeva dal suo bel Brougham per andare a trovare una certa signora che abitava di fronte. Era succeduto alla regina Vittoria. Le nubi si erano assottigliate in una garza leggera. Il cielo sembrava un metallo che nei giorni caldi si verniciava di verde grigio, di rosso rame o di arancione, come fa il metallo nella nebbia. Era allarmante quell'assottigliarsi. Tutto tutto sembrava essersi assottigliato. Nel passare davanti a Buckingham Palace, la sera prima, non aveva più visto traccia di quella costruzione monumentale che aveva creduto eterna. Cappelli a cilindro, veli da vedova, trombe, telescopi, corone funebri, tutto era svanito senza lasciare la minima macchia, nemmeno una pozzanghera sul selciato. Ma era a quell'ora. Dopo un'altra assenza era tornata al suo posto di osservazione preferito alla finestra, verso sera, che il cambiamento era più evidente. Tutte quelle luci nelle case, a un solo tocco un'intera stanza si illuminava. Centinaia di stanze si illuminavano e una era identica all'altra. Si poteva vedere tutto in quelle scatoline quadrate, non c'era più intimità, nessuna di quelle ombre titubanti, di quegli angoli misteriosi di un tempo. Nessuna di quelle donne in grembiule che portavano lampade traballanti posandole con cautela sui tavoli. A un solo tocco la stanza intera splendeva di luce e il cielo era illuminato tutta la notte e i marciapiedi erano illuminati. Tutto era illuminato. Ritornò alla finestra a mezzogiorno. Come erano diventate snelle le donne ultimamente. Sembravano spighe di grano erette, lucide, identiche. E le facce degli uomini erano nude come il palmo della mano. L'atmosfera secca faceva risaltare i colori di ogni cosa e sembrava indurire i muscoli delle guance. Ora piangere era più difficile. L'acqua si riscaldava in 2 secondi. L'edera era morta o era stata strappata dalle case. Gli orti erano meno fertili, le famiglie molto meno numerose. Tende e foderine erano state arrotolate e tolte e le pareti erano spoglie, per potervi appendere in cornice o in affresco quadri dai colori vivaci, raffiguranti cose vere come strade, ombrelli, mele. Quell'epoca aveva un che di definito e netto, che le ricordava il XVIII secolo, ma con un in più di follia, di disperazione. Mentre pensava così, il tunnel smisuratamente lungo in cui le pareva di viaggiare da secoli si allargò. Vi fiottò la luce. I suoi pensieri si tesero misteriosamente, si contrassero come se un accordatore di pianoforti le avesse conficcato la chiave nella schiena, tirandole i nervi fino allo spasimo. Al tempo stesso il suo udito si acuì. Ora udiva il minimo mormorio e scricchiolio nella stanza, tanto che il ticchettio della pendola sul caminetto era diventato un martello. E per qualche secondo la luce divenne sempre più viva. E lei vide le cose sempre più chiare e l'orologio ticchettò sempre più forte finché una tremenda esplosione la colpì proprio nell'orecchio. Sobbalzò, come se avesse ricevuto un violento colpo in testa. 10 volte fu colpita. Infatti erano le 10 del mattino, era l'11 ottobre, era l'anno 1928, era il momento attuale. Nessuno si meraviglierà che Orlando trasalisse, che si premesse la mano sul cuore e impallidisse. Perché quale rivelazione può essere più terrificante di quella che siamo nel momento attuale? Se sopravviviamo al colpo è solo perché il passato ci fa scudo da una parte e il futuro dall'altra. Ma ora non abbiamo tempo per riflettere. Orlando era già terribilmente in ritardo. Scese di corsa le scale, saltò in automobile, mise in moto e partì. Vasti isolati azzurri si alzavano al cielo. Le sagome rosse dei camini lo punteggiavano irregolari. La strada scintillava come chiodi dalla capocchia d'argento. L'attallonavano autobus con conducenti dai bianchi visi di statue. Notò spugne, gabbie di uccelli, valigie di tela verde americana. Ma non permise a quelle immagini di penetrare nel suo animo neanche un pollice, per timore di cadere nell'impetuoso torrente sottostante. Perché non guarda dove va? Metta fuori la mano, no? Fu tutto quel che disse, brusca, come se le parole le scattassero fuori da sole. Le strade erano stipate di folla, la gente attraversava senza guardare dove andava. La gente ronzava e mormorava intorno alle vetrine in cui si vedeva un bagliore rosso, un barbaglio giallo, come api, pensò Orlando. Ma il pensiero che fossero api fu tagliato via di colpo e, riacquistando in un batter d'occhio la giusta prospettiva, vide che erano corpi. «Perché non guardate dove andate?» sbottò. Ma finalmente frenò davanti ai magazzini Marshall e Shelgrove ed entrò. L'ombra e il profumo l'avvolsero, il presente scivolò via da lei come gocce d'acqua bollente. La luce ondeggiava come una stoffa lieve gonfiata da una brezza estiva. Estrasse dalla borsa una lista e cominciò a leggere, a voce dapprima stranamente impacciata, come se tenesse le parole. Stivaletti da ragazzo, sali da bagno, sardine. Sotto un rubinetto d'acqua multicolore. Le guardava mutare sotto quel getto di luce. Bagno e stivaletti stinsero, si ottusero. Le sardine si dentellarono come una sega. Al piano terra di Marshall e Shelgrove guardava qua e là, aspirava odori svariati e perse così qualche secondo. Poi entrò nell'ascensore per la buona ragione che la porta era aperta e fu lanciata verso l'alto. La vita d'oggi, pensava salendo, è tutta intessuta di magia. Nel XVIII secolo sapevamo come erano fatte le cose, ma ora mi sollevo in aria, ascolto voci dall'America, vedo uomini che volano. Ma come questo accada? Non comincio neppure a chiedermelo. Così mi ritorna la fede nella magia. Con una lieve scossa, l'ascensore si era fermato al primo piano e lei ebbe la visione di innumerevoli stoffe colorate, fluttuanti nell'aria, che emanava odori strani ma distinti. E ogni volta che l'ascensore si fermava spalancando le porte, schiudeva un altro spicchio di mondo avvolto nei suoi odori. Le venne alla mente il fiume al di là di Wapping, ai tempi di Elisabetta, dove si ancoravano i galeoni e i mercantili. Quanti odori intensi e strani. E come ricordava il contatto dei rubini grezzi fra le dita quando li rimescolava nel sacco del bottino. E quella volta che giaceva con Saki, o come si chiamava, e la lanterna di Cumberland li aveva illuminati di colpo. Ora, i Cumberland avevano una casa a Portland Place e lei era stata a pranzo da loro l'altro ieri e aveva azzardato col vecchio qualche battuta a proposito delle case per i poveri di Sheen Road. Lui le aveva strizzato l'occhio. Ma l'ascensore non poteva salire oltre, lei dovette uscire, Dio sa in quale reparto, come li chiamavano. Si fermò per consultare la lista degli acquisti, ma non c'era verso che vedesse da nessuna parte né i sali da bagno né gli stivaletti da ragazzo richiesti dalla lista. E stava già per ridiscendere senza aver comprato nulla, ma superò una tale vergogna leggendo macchinalmente ad alta voce l'ultimo oggetto della lista, che erano, casualmente, lenzuola matrimoniali.